Il punto di Stefano Folli. Dice Renzi che con la riforma elettorale ora avviata, ma naturalmente non ancora approvata, l'incantesimo si è rotto, l'incantesimo di un sistema immodificabile che per la prima volta dopo anni incontra una speranza. Può darsi che abbia ragione, ma senza dimenticare che 20 anni fa, agli albori dell'era di Berlusconi e di un pessimo bipolarismo, si dicevano le stesse cose e si vivevano le stesse attese. Abbiamo visto com'è andata. Oggi la nuova stagione non può fondarsi solo sulla legge elettorale, pure importante, una legge peraltro che solleva forti resistenze, a cominciare dal premio di maggioranza. C'è bisogno a questo punto che il governo faccia bene la sua parte attraverso il coraggio delle iniziative e un ricambio della squadra ministeriale, oggi ridotta al lumicino. Insomma, altro che elezioni anticipate, proprio il primo successo di Renzi deve stimolare Letta ad andare avanti con quella determinazione che talvolta è mancata, in modo da non dover trasmettere all'opinione pubblica messaggi sconfortanti e contraddittori, compresa, diciamolo, la confusa pagina parlamentare che accompagna la conversione del decreto IMU Banca Italia.